I lavori di domani di Anna Marino. Si può giocare online facendolo diventare un lavoro e mettendosi anche al servizio di valori importanti come la sostenibilità? Un cambiamento di prospettiva è necessario, oggi soprattutto quando si parla di game designer e game artist e la sua legittimazione professionale, non come il giocatore cresciuto o come si diceva una volta nerd, ma un professionista. La sua formazione però è ancora difficile da trovare e bisogna costruirsela come un Lego anche qui, ed è per questo che oggi facciamo le dovute distinzioni tra game designer, figura che si occupa di progettare le meccaniche del gioco per assicurare il coinvolgimento, garantire coerenza narrativa e una giusta tensione tra complessità del gioco e autoefficacia percepita dal giocatore, e game artist, profilo che si occupa degli aspetti più artistici e creativi del tratto grafico del personaggio e della sua coerenza con l'environment di gioco comunque progettato da questa figura. E noi, come sempre e come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura, grazie ad Alessandra Micalizzi, che si occupa proprio della formazione di game designer e game art animators. Siamo abituati a immaginare il gioco come un strumento di puro intrattenimento e quindi nella sua efficacia ludica non sottovalutiamo l'importanza invece delle figure che ci sono dietro le quinte nella loro progettazione, e in modo particolare il game designer è la figura che si occupa della meccanica, cioè di tutti quei meccanismi narrativi e tecnici, quindi di ingaggio del gioco per consentire un pieno divertimento da parte del giocatore e quindi il raggiungimento di una serie di obiettivi, mentre il game art è la figura che si occupa più degli aspetti artistici, quindi del tratto grafico, delle scelte relative all'ambiente, la progettazione di quelli che vengono definiti environment, nonché appunto dei singoli personaggi. Quindi sono due figure particolarmente preziose ed importanti per ottenere poi dei prodotti di alta qualità ed efficaci sia sul piano dell'intrattenimento che poi della qualità artistica del gioco, perché non dobbiamo dimenticarci che il gioco è comunque un prodotto culturale. È molto importante capire allora il percorso per queste figure, perché sa ovviamente come devono essere formate in modo giusto. Ecco, qual è la formazione, qual è il percorso di formazione? Fino adesso, soprattutto nel mercato italiano, ci arriva in un certo senso dopo esperienze sul campo. Invece, per fortuna, negli ultimi anni sono nati dei percorsi specifici, cioè dei percorsi triennali post diploma, in genere di carattere accademico, che orientano proprio direttamente all'acquisizione di quelle competenze di base che servono poi per lavorare nel mercato del lavoro. Sai, Institute, ad esempio, ha due percorsi proprio su queste due discipline, entrambi triennali, dove si possono costruire insieme le basi nel primo anno più dedicate all'acquisizione di competenze, diciamo, tecnico-teoriche. Ad esempio, il mio insegnamento psicologia del game è proprio nel percorso del primo anno, l'anno comune, e poi appunto ci sono una serie di discipline di indirizzo più di carattere laboratoriale, quindi l'acquisizione di competenze connesse ai software, lo sviluppo anche di competenze matematiche nel caso specifico ad esempio del game designer, perché i meccanismi di gioco devono essere comunque connessi a delle prove, quindi a una serie di sillogismi, come siamo bene abituati a pensare nel linguaggio logico, che consentono poi la prosecuzione nei quadri successivi. È un percorso che deve avere una formazione specifica e ovviamente la vostra formazione avviene con questi step. Poi si arriva comunque, noi parliamo di lavori più gettonati, al lavoro, all'impiego. Ecco, qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure anche a seconda della seniority? Questa, insomma, è una domanda abbastanza delicata, perché, come le dicevo, appunto nel mercato italiano spesso queste figure sono dei freelance, quindi sono delle figure che costruiscono le loro competenze sicuramente in base al numero di progetti che riescono a seguire, però in un certo senso dipende molto da quanto possono coinvolgersi, per essere coinvolti in questo tipo di progetti, quindi è difficile poter dare una cifra definitiva. È sicuro che il mercato italiano ancora è molto al di sotto sotto delle soglie degli altri mercati, se si pensa ad esempio alla Germania, alla Francia, ai paesi del nord Europa, lì i compensi insomma anche di partenza vanno dai 3.000 euro in su. Nel caso specifico dell'Italia siamo ben al di sotto, quindi sicuramente c'è molto da fare da questo punto di vista e soprattutto dal riconoscimento strutturato di questa figura all'interno di quelle realtà che in Italia purtroppo ancora sono poche, che fanno appunto del gioco il loro prodotto imprenditoriale di punta. Certo, è un mercato davvero in grande crescita, ma queste figure sono molto ricercate secondo la vostra esperienza e dove si possono trovare le offerte? Soprattutto è importante un po' capire come orientarsi anche nel dopo formazione. Sale, per esempio, già offre una serie di opportunità di placement, nel senso che come accademia ci assumiamo un po' questa responsabilità coinvolgendo professionisti che operano già nel settore e che in un certo senso pescano dai nostri studenti poi delle figure che possono ulteriormente formare direttamente sul campo nel mondo del lavoro e quindi inserirle poi in una serie di progetti. Esistono poi dei network specifici, nel senso dei network di professionisti connessi per esempio agli ambiti agli ambiti fieristici, agli ambiti più di promozione di questi prodotti. Penso alla Games Week milanese, dove è possibile entrare in contatto con tutte le realtà attualmente attive di dimensioni differenti, quindi dalla grande casa di distribuzione del videogioco alla piccola realtà che si impegna a produrre e a promuovere prodotti indipendenti. Poi ci sono naturalmente i social network più strutturati come LinkedIn, dove anche lì attraverso una serie di parole chiave è possibile cercare dei profili più specifici, però sicuramente ecco le accademie, quindi Sai Institute nel caso specifico e l'esperienza che posso portare, svolgono un ruolo importante anche proprio di connessione fra il mondo della formazione ed il mondo appunto più ampio del lavoro. La cattedra di psicologia del game, di cui lei è titolare, può anche aiutare a capire come il gioco comunque faccia entrare anche altri elementi psicologici, di sostenibilità, di attenzione verso come dire, l'umane capacità. Ecco, c'è una sfera molto importante che va preservata e anche in questo momento, insomma, di distanza in cui molti si avvicinano al gioco, è necessario comunque avere anche una certa responsabilità nel gestirlo, oltre che sostenibilità. Cosa insegnate? Quali sono gli elementi, insomma, che sono utili per anche gestire un gioco sostenibile? Il tema del gioco è sicuramente molto controverso. In Italia si porta dietro un immaginario strettamente connesso al rischio della ludopatia, al rischio di una serie di meccanismi di dipendenza che possono portare poi all'isolamento e quindi all'abbandono di quella che può essere il contatto con la realtà. Formare i ragazzi dando quegli strumenti che consentono di lavorare sul tema della narrazione, di immaginare dei prodotti che possono essere comunque coerenti con il target a cui si vogliono rivolgere, di produrre in modo responsabile, quindi secondo dei principi etici e deontologici che partono anche dalla costruzione di storie che siano adeguate al pubblico, ecco, e quindi fruibili per il pubblico. C'è l'impegno da parte nostra, come sai, ad esempio, di promuovere una serie di progetti innovativi finalizzati a pensare al gioco non solo e semplicemente come puro intrattenimento, ma anche come spazio per esempio per l'apprendimento, quindi penso al mondo dei serious game o della riabilitazione, penso diciamo all'ambito del serious game applicato appunto alle neuroscienze, per esempio, quindi tradurre in qualche modo alcuni strumenti che prima erano prettamente testistici oppure di appunto riabilitativi in strumenti che abbiano una base invece, una base ludica e quindi che contribuiscano all'inclusione sociale da parte delle persone. Un nostro studente lo scorso anno ha proposto un gioco, un audiogioco che ci ha permesso di collaborare con UICI, l'Unione Italiana Ciechi e Poi Vedenti, proprio con l'idea di creare un gioco che potesse essere giocato esclusivamente con l'ascolto, quindi sia il vedente che il non vedente venivano messi nelle medesime condizioni e trovavano un terreno comune di relazione. Questo per noi è un aspetto molto etico. E allora è ora di prendere appunti. Fino adesso abbiamo avuto tantissimi consigli utili, li troverete comunque anche sul sito, lo dico agli ascoltatori, nell'introduzione al podcast della puntata di oggi. Riassumiamo: prendete carta penna o i vostri device e via con gli appunti. Quali indicazioni ha per siti per formarsi, informarsi e per la ricerca del lavoro? Noi, come sempre, come ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma, vicino al podcast e alla descrizione di questa queste due figure segnaleremo subito appunto questi app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. Grazie ovviamente ad Alessandra Micalizzi. Qual è il suo consiglio, insomma, di ventaglio di link utili? Certamente www.sae.edu, cioè quello della nostra accademia, dove sono disponibili i programmi di studio, la possibilità di visitare il campus, di scaricare le brochure, quindi di informarsi anche in modo più puntuale sull'organizzazione del nostro piano di studi. E poi naturalmente il primo faro, ecco, digitale a cui fare riferimento è sicuramente IIDEA, con due I, mi raccomando, quindi www.iidea.it, che è la, diciamo, l'associazione di categoria che racchiude tutti i professionisti che operano nel settore del game, che offre una serie di momenti formativi, di momenti di incontro, quindi per la costruzione del network tra professionisti, oltre che opportunità di carattere concorsuale. C'è Europa Creativa, che è un'altra risorsa importantissima, anche questa, diciamo, ci si può iscrivere alla newsletter e ricevere una serie di notifiche per attività concorsuali, per iniziative, contest, sia formativi ma anche appunto di proposizione appunto di nuovi contenuti di carattere creativo a livello europeo, quindi si viene anche in un certo senso seguiti ad aprire le porte verso un mercato che non può e non deve restare solo puramente italiano, ma deve guardare all'estero. Nel mondo del game ha maggior ragione, proprio perché in un certo senso noi siamo arrivati un po' dopo. Il gaming potrà essere in qualsiasi lavoro, ma sarà un gaming sostenibile. Sarà pervasivo, sarà sostenibile, rispettoso e molto connessa alle nuove tecnologie, quindi continuamente, costantemente al passo, se non un passo avanti addirittura.